La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, siamo all'ora di cinema settimanale di Radio 24, un saluto da Franco D'Assisi, settimana con 5 novità in sala, un paio di film molto attesi dal grande pubblico e noi ovviamente ce ne occuperemo, come ci occuperemo anche di altri argomenti importanti, una piccola rivoluzione che sta per arrivare nelle sale cinematografiche, l'uscita del film anticipata al giovedì. Dopo lo storico regno del venerdì che è durato per tanti anni, insomma, tutti i contenuti della nostra trasmissione nei nostri titoli di testa. Tornano Manny, Diego e Sid nella quarta avventura della saga dell'era glaciale. La deriva dei continenti divide la famiglia dei mammut e mette la sgangherata band di fronte ai terribili pirati di Capitan Sbudella, con la nonna Bradipo a fare la differenza. L'Italia che insegue il sogno della celebrità e piomba nell'incubo della vita vera. È quella raccontata da Matteo Garrone in Reality, il nuovo film del regista di Gomorra che ha vinto il Grand Prix al Festival di Cannes e ora esce sugli schermi italiani. Storia di gerarca nazista in un interno greco. È la vicenda raccontata nel film Appartamento ad Atene, pluripremiata opera prima di Ruggero Di Paola, interpretata da Laura Morante. Per non dimenticare il passato e guardare il presente con occhi diversi. La rivoluzione del giovedì. Dal 4 ottobre i film usciranno al cinema un giorno prima del tradizionale venerdì. Cosa cambia e cosa ci si aspetta da questa svolta? Dalla voce di Lionello Cerri, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema. Ciao Ethan, mi chiamo Pesca. E tu? Oh, ma che dico? Va bene, stiamo calme. Devo stare calmo. Oh! Sì! Notevole! No! No! Orrore! È quella strana che frequenta gli opossum! Oh, cos'è successo? Oh no, Ethan, scusami, mi dispiace tanto, davvero io! Però sei ancora più figo da vicino, favoloso, scusa, volevo... Hai una sorella gemella? Sto interrompendo qualcosa? Papà! No, va bene. Scusa, se ho... aspetta, no, no, vai indietro un pochino. Di più. Meno... Tu, sta alla larga da mia figlia. Da morire dalla vergogna. E allora, l'avete capito, stiamo parlando dell'era glaciale, quattro continenti alla deriva. È il titolo completo del film che arriva nelle sale cinematografiche italiane in questo fine settimana, in odore di primo posto in classifica. Nel prossimo weekend, durante il weekend, chiaramente un francese, quello dell'era glaciale, che ormai sta durando da anni, è diventato un marchio di fabbrica, i personaggi sono molto amati, molto capaci di penetrare nell'immaginario del pubblico e quindi ci ritroviamo davanti alla famiglia dei mammut, Manny, Ellie e Pesca, che avete sentito, è diventata adolescente, comincia ad avere le sue attenzioni rivolte più verso i maschi mammut giovani che non verso gli opossum amici. E da lì comincia proprio questa nuova avventura, perché proprio nel momento in cui abbiamo sentito nella clip Manny va a fare il papà geloso della figlia, i continenti, le zolle dei ghiacciai eterni si dividono e cominciano ad andare alla deriva. Chiaramente cosa succede? Che da una parte rimane Manny con il fido Diego, la tigre zannuta, la ricorderete, e ovviamente Sid, perché se no non c'è la risata. Dall'altra parte rimangono invece Ellie, la madre, e Pesca, la figlia. Cercheranno di ritrovarsi, ma lo faranno solo dopo un lunghissimo percorso. Un lunghissimo percorso perché sul blocco di iceberg sul quale sono rimasti Sid, Manny e Diego, arrivano gli arrembanti pirati. Ho le allucinazioni o quell'iceberg sta venendo verso di noi? Sì, sì, viene qui! E pare che ci siano degli animali sopra! Oh, allora è una nave da crociera! Voi laggiù! Siete stati fortunati! Queste acque sono infestate dai pirati! Non siamo in cerca di guai! Vogliamo solo tornare verso il continente! Esiste solo qui. E qui... La tua nave appartiene a me. Consegnatemi la vostra nave o affronterete la mia collera. E come l'hai preso il colera? Non colera, collera! Issa la pelliccia! Issa la pelliccia, è molto divertente anche questo momento del film. È inutile andare avanti nel racconto, nel senso che ovviamente, mi viene da dire, il finale sarà happy, però è interessante dire che il film scivola su una sceneggiatura non sempre particolarmente ispirata, meglio i dialoghi delle situazioni, diciamo così, una sceneggiatura molto lineare, le due anime della famiglia e del gruppo si dividono per poi ritrovarsi attraverso mille peripezie, questa volta rappresentate da Capitan Sbudella, il capo dei pirati, uno scimmione piuttosto aggressivo, e anche da un paio di personaggi molto azzeccati, una tigre femmina che sta col pirata e che ovviamente si innamorerà di Diego, e lì ci sono alcuni dei dialoghi molto molto riusciti di questo film, dall'altra il nuovo personaggio che contrassegna questo Era Glaciale 4, ovvero Nonnina, cioè la nonna di Sid, una bradipa un po' squinternata che però ne combina di ogni e soprattutto è davvero divertente in ogni momento. Film che non ha pretese di, diciamo, vicine a quelle di Madagascar per intenderci, di essere magari un intrattenimento più rivolto verso gli adulti che non verso i piccini, è un film da famiglie assolutamente, i personaggi li conosciamo, fanno un po' sempre le stesse cose ma fanno sempre abbastanza ridere e quindi si esce comunque sempre con un sorriso sulle labbra e con l'idea di non avere sicuramente buttato via i soldi del biglietto. Attenzione, come sempre c'è il piccolo Scrat alla ricerca della ghianda che punteggia come una vera e propria interlinea vivente tutte le varie fasi, i vari capitoli della storia. Questo è l'Era Glaciale 4 nei cinema italiani. La rosa purpurea. Ladies and gentlemen, madame e monsieur, qui con noi Enzo! Non abbandonate mai i nostri sogni! Enzo! Mi sorridi sempre così se faccio il provino. Vuoi vedere che io lo faccio? Questa è l'ultima raffetta, non famosa, le illusioni di Luciano Ciotola, napoletano pescivendolo, che arrotonda lo scarso stipendio con piccole truffe legate ai robottini tuttofare da cucina, ma che coltiva un sogno, quello di partecipare al Grande Fratello. È reality di Matteo Garrone, film presentato e premiato con il Grand Prix a Cannes nello scorso mese di maggio e adesso finalmente nelle sale cinematografiche italiane. Il ritorno del regista di Gomorra, il ritorno di un regista capace di tratteggiare una fotografia dei drammi italiani, quelli anche proprio interiori, in maniera molto molto efficace. Lo fa anche in questo caso con questa che è tutt'altro che una commedia, potremmo chiamarla un'ipercommedia in un certo senso. E allora la storia di Luciano Ciotola, dicevamo, quartieri spagnoli, casa bella, di vetusta antichità ma fatiscente, con una compagnia di giro di familiari che vive nel tinello, tutti piuttosto in carne, con una moglie che lo ama, con delle bellissime bambine, e quest'uomo che vive bene la sua realtà, che ha il suo negozio appunto di pescivendolo, che sembrerebbe a posto tutto sommato anche grazie appunto a questi piccoli arrotondamenti extralegali, a un certo punto subisce il fascino che tutti subiscono del Grande Fratello e quasi per compiacere anche il volere dei figli si iscrive a un provino. In questo provino Il nostro Luciano, dopo lunga attesa, viene premiato con un secondo colloquio a Roma, niente meno che a Cinecittà, negli studi del Grande Fratello, e a lei tutta la famiglia chiaramente a Roma ad accompagnarlo. Dopo questa intervista, diciamo così, a Roma, durata più degli altri aspiranti partecipanti, Luciano si monta la testa, forse anche un po' la perde. Comincia ad attendere quella telefonata che sentivate nella clip in maniera spasmodica, comincia a dimenticare la realtà, quella reality del titolo che gli è intorno, comincia a confonderla con quella virtuale che però ancora non c'è, sottoponendosi anche agli atroci scherzi degli amici. Assolutamente no, non c'è questo problema, no, non c'è. Veramente? E voi, vanno vegliati! C'è tutta Napoli a festeggiare. Scusate, sì, siamo a male. Ho capito. No, ma noi l'abbiamo preso proprio per questo, perché si vede proprio dalla faccia che lei è una persona, diciamo, lei ha la faccia proprio e strunz. Sento, siamo di redazione di Grande Fratello. Oh, ma io ho detto niente di strano, io sono veramente il Grande Fratello. Ma che fai stare? Ma se tu che stai fai no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Lo scherzo atroce, l'illusione che sale e che poi crolla. Da lì in poi comincia una sorta di vera e propria discesa agli inferi, sempre più lontano dalla propria personalità, dai propri affetti, dalle proprie cose che Luciano comincia a regalare ai poveri, convinto di essere spiato in ogni momento dagli emissari del Grande Fratello che vogliono vedere come si comporta davvero nella vita, perché sennò quella chiamata non arriverà. Luciano perde anche il contatto, oltre che con la realtà, con i propri affetti, con sua moglie, e finisce quasi disperato a vagare per le vie di Napoli in attesa di una telefonata che non arriva. Voi volete entrare in quella casa? Sì che voglio entrare. E ci entrerete? Ma tu arrepigliano, c'è tutto l'indagapatore, ma che combinate? Scitata! E non mangia arrepiglia niente, e capite? Perché come ti dichi, tu non vuoi capire. Confermata, pezza qua. Bel film questo reality di Matteo Garrone, un film che cresce con i giorni dopo la visione, un film apparentemente semplice, apparentemente in tono di commedia, in fondo un'iperbole che basta guardarsi spesso in giro, in metropolitana o per le vie delle nostre grandi città, per riscontrare il sogno di qualcosa che ci faccia diventare speciali, pur essendo magari noi assolutamente ordinari, o comunque ci faccia diventare speciali a costo zero, con pochi sacrifici e con quella notorietà tipica di questi personaggi usciti da questi reality. È molto interessante l'avvio del film, c'è una scena davvero straordinaria con questo Enzo che va in giro a fare il testimone del Grande Fratello anche ai matrimoni, cioè viene pagato da chi si sposa per avere la celebrity, chiamiamola così, quel giorno, in quel giorno speciale, che possa semplicemente in 5 minuti salutare gli ospiti e poi andarsene via appunto pagato anche lautamente. Cos'è il sogno di una vita, il sogno di un'emancipazione? Questa probabilmente no, è solo un sogno di gloria, di visibilità, di riconoscibilità. Matteo Garrone aveva detto di voler fare un film diverso, ovviamente, diverso da Gomorra sicuramente, lo ha fatto per registro stilistico, che però è molto originale, perché è vero che apparentemente reality è una commedia, ci sono momenti in cui anche si sorride, ma è vero che la situazione, la realtà che racconta è molto più drammatica, se vogliamo, perché mentre contro i guasti della Camorra abbiamo maturato degli anticorpi, abbiamo deciso che quella cosa lì è il male e quindi, come dire, ci schieravamo anche durante il film, qui il male è molto più difficile da affrontare, è molto più difficile da combattere, è stato sicuramente molto molto più pervasivo. 20 anni di storia, non solo del Grande Fratello, ma di un certo tipo di impianto culturale buttato a piene mani dagli schermi dai piccoli schermi della televisione, ha sicuramente creato un uditorio molto ampio per questo tipo di avventure mentali, perché non si può che chiamarle così. E in questo è molto interessante l'aspetto musicale di Alexandre Desplat, perché la musica di questo film è fondamentale, una musica, l'avete sentita, che sta tra il drammatico e Nightmare Before Christmas. In effetti stiamo parlando di un vero e proprio incubo che però si coniuga alla favola. Questa è la situazione che Garrone riesce perfettamente a raccontare, anche grazie alla freschezza del suo cast, capitanato da Aniello Arena, ma dove ci sono Loredana Simioli, Nando Paone, nomi magari non particolarmente altisonanti in locandina, però perfettamente a proprio agio in questa storia e nel contesto napoletano dove Garrone si vede gira con grande padronanza. Quindi un film che forse non ha la drammaticità delle singole scene pari a quella di Gomorra, ma che a mio modo di vedere racconta questa specie di corsa a tappe di questo personaggio verso una felicità effimera e tra l'altro inesistente, che lo fa accomunare a un altro film che abbiamo visto recentemente, è stato Il figlio di Daniele Cipri, perché anche lì, se ricordate, per chi l'ha visto magari, il personaggio di Tony Servillo aveva una grossa, un grosso risarcimento dopo che una piccola, una bambina della sua famiglia era stata uccisa dalla mafia. Questo risarcimento tardava sempre ad arrivare e lui costruiva una vita virtuale prima ancora che quei soldi arrivassero, ed era fatta di cose effimere, in quel caso di una Mercedes, qui semplicemente della voglia di entrare in quella casa per essere poi un giorno un vincente. Ma chissà se si tratta davvero di un vincente o di qualcosa di meno di questo. Reality e cinema italiani di Matteo Garrone. E allora è arrivato il momento adesso di giocare insieme. Siamo alla prima traccia del nostro game di oggi. Udite, udite, perché dovete dirci di che film si tratta. Brutta stupida, l'hai fatta apposta. Stupida sarai tu. Bambine, bambine, ricordatevi, innanzitutto bisogna sapersi dominare. E allora la rosa purpurea @radio24.it, di che film si tratta? Ditecelo, scrivetecelo col vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica, una copia al primo dei nostri ascoltatori che risponderà esattamente. Più tardi ci saranno altre due tracce. E adesso cambiamo decisamente registro in questa settimana cinematografica, parlando di un film, diciamo così, che già dal titolo denuncia la sua appartenenza al genere femminile. Si intitola Elle, è certo che è un titolo un po' impegnativo per il pubblico italiano, non perché non si capisca cosa voglia dire, ma perché è un titolo... andiamo a vedere Elle, non è semplicissima come cosa, però vabbè. Malgoska Zumowska, la regista, soprattutto Juliette Binoche, l'attrice protagonista, ce lo racconta la nostra Chiara Pizzimenti. Pronto? Salve, sono Lola. Stasera alle 18. Si può fare? Con che tipologia di uomini le capita di incontrarsi abitualmente? Per lo più mariti annoiati. La telefonata è quella fra un cliente e una giovane studentessa che si prostituisce per frequentare l'università a Parigi. Un'altra giovane, che si mantiene vendendo il proprio corpo, risponde invece alle domande di una giornalista del settimanale Elle, che sta facendo un'inchiesta sulla prostituzione fra le studentesse. La cronista, Juliette Binoche, incontra entrambe le ragazze. Incontri destabilizzanti e scioccanti, non solo per la crudezza di alcuni racconti, ma soprattutto per la sincerità, forse in attesa delle risposte. È un po' come fumare. È difficile smettere. Di colpo ti ritrovi piena di soldi e... Sono dei normali giovanotti che pagano per fare sesso. Giovanotti non direi proprio, perché hanno quasi tutti l'età di mio padre. Io sono stata molto fortunata. Fortunata? Non lo trova umiliante? No. Tutto ci viene raccontato in continui ritorni indietro della memoria, nella giornata della giornalista in cui scrive l'articolo e insieme sveglia i figli, prepara la cena, incontra i colleghi. Inevitabile che nasca il confronto fra la sua vita borghese, i suoi principi non lontani dal femminismo e la vita delle ragazze. La prima volta ero nervosissima perché pensavo che avrebbero voluto scopare per delle ore, invece questi ti raccontano della loro vita. Qual è l'aspetto del suo lavoro che le risulta più difficile? Senza altre mentire, mentire tutto il tempo. Non sono forse tutte uguali le menzogne, borghesi, proletarie, nel sesso come nell'amore? Le contraddizioni sono ovunque, non solo nell'uomo che paga per un rapporto e poi ti canta Prévert. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Elle, loro al femminile, elle si direbbe in un italiano che non si usa più. Donne protagoniste e autrici di questo film, a partire dalla regista Malgoska Zumowska. C'è però un nome sopra gli altri, quello di Juliette Binoche. È grazie soprattutto a lei se questa pellicola non si esaurisce nel voyeurismo soft porno con un po' di moralismo, come accade in film del genere. Non che questo non ci sia, come i cliché, per esempio la famiglia borghese infelice, ma la sua interpretazione, il suo punto di vista, il suo ragionare su somiglianze e riflessi fra le esistenze rendono più originale il film, costruito su binari paralleli per le diverse storie, nessuna però in realtà veramente approfondita. Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Elle con Juliette Binoche nei cinema italiani da questo fine settimana. Eccoci ancora insieme, terza parte della Rosa Purpura. Come promesso, un altro film in sala in questo fine settimana di cui vogliamo parlare. Vi ricordo che c'è anche Resident Evil Retribution, ma insomma non ho avuto il coraggio di inserirlo in scaletta. Parliamo invece di Appartamento ad Atene, opera prima di Ruggero Di Paola, coraggiosa per tanti motivi, ma soprattutto, ve lo voglio dire subito, pluripremiata in un sacco di festival internazionali e finalmente arrivata anche nei cinema italiani. Cast capitanato da Laura Morante, ma anche con Richard Sammel e altri attori importanti, un cast internazionale per una storia ambientata nel 1942, proprio ad Atene, come si dice nel titolo, dove una famiglia è costretta a ospitare, diciamo così, ma sostanzialmente a farsi invadere la casa da una gerarca nazista. E il film racconta proprio, esplora questo rapporto fra questi due componenti che vivono in questa casa. Sentiamo la clip. Racconta di quello che aveva solo mezza faccia. C'era uno che non aveva più il naso. Si vedeva il cervello, sembrava un mazzo di gerani. Alex, stanno andando a casa vostra. Il capitano viene a stare da noi. Si chiama Calter. Per una pacifica convivenza chiariamo subito i compiti. Colazione alle 6 in salotto. Cena alle 7 in punto. Pulizia quotidiana delle mie stanze. Cambio di lenzuolo ogni 3 giorni. Spesa giornaliera al mercato. Il bagno è riservato al mio uso personale. Non basta uno inginocchiarsi per il nazista. Se io parlo con lui, lo faccio per voi. Per farvi mangiare. Per farvi dormire tranquilli. La mamma come fa a dormire tranquilla con accanto uno come te? Insomma, come avete sentito, la situazione si fa abbastanza drammatica. Ne parliamo con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris, dicevamo un'opera prima quantomeno coraggiosa, perché scegliere un tema così anziché appoggiarsi a quelli che sono i temi anche legittimamente usuali di un'opera prima, sicuramente è un'opera coraggiosa. Anche riuscita? Anche riuscita, assolutamente anche riuscita. Si accusa il cinema italiano d'autore, soprattutto esordiente, di essere due camere e cucina. Lo è anche in questo senso, perché sono due camere e cucina più o meno quelle che vengono invase dal gerarca nazista che rompe il menage borghese di questa coppia greca, e però sono due camere e cucina che contengono il mondo, perché contengono il mondo della Grecia del 1942, contengono un mondo di una Germania che in maniera ottusa e violenta invade un paese comunque dall'enorme cultura, e contiene una riflessione sul male assoluto che diventa quotidiano, cioè un gerarca nazista invade il menage quotidiano di una famiglia borghese, invadendone il talamo, invadendone la sala da pranzo, condizionando la loro vita. Io l'ho trovato molto interessante, l'opera sicuramente delle ingenuità, anche perché insomma l'argomento è potente, possente e anche di difficile gestione, ma delle intuizioni molto molto felici, degli attori tra cui Laura Morante di altissimo livello, e di questi personaggi emblematici secondo me diventano molto molto interessanti. Penso alla madre che per difendere i figli diventa una sorta di chioccia che cerca di fare da barriera contro questo male, e il padre che non riesce a conciliare la grande cultura del gerarca con la sua violenza, che è forse lo simbolo più doloroso che il nazismo ha portato con sé, questo amore per il bello, questo amore per la cultura unito alla crudeltà più incredibile che si poteva immaginare. Ruggero Di Paola riesce a tenere tutte queste cose insieme, riesce anche a fare tra l'altro una svolta di narrazione molto interessante, perché a un certo punto questo rapporto cambia, non si capovolge ma in qualche modo diventa molto diverso, e non manca mai la tensione emotiva e intellettuale nel film. Ripeto, ci sono delle ingenuità, ma a mio parere è un film molto molto interessante che va visto, perché si può fare un'opera prima in Italia con una grande ambizione e tra l'altro con attori stranieri, che rende il tutto molto più difficile. A Di Paola non piace vincere facile, però secondo me in questo caso ha vinto. E allora, consigliato da Boris Sollazzo, Appartamento ad Atene nel cinema italiano. Grazie Boris. Grazie a te Franco. E a questo punto giochiamo ancora insieme, sentiamo questa nuova traccia del nostro game. C'è quel grande tappeto nell'ingresso. Spostilo! E le finestre al piano di sopra. Lavale! Poi c'è da fare la tappezzeria e le tende. Ma ho appena finito. Falle di nuovo! Beh, insomma, qui è qualcosa più di una traccia, quasi nome, cognome e indirizzo. Di che film si tratta per provare a vincere il Blu-ray, il più bravo fra gli ascoltatori del sabato e della domenica? La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per giocare. Più tardi vi daremo un'altra opportunità. Ebbene, dopo il nostro gioco e dopo aver esaurito le proposte cinematografiche sul grande schermo di questo fine settimana, apriamo uno spazio dedicato a quello che può essere chiamato costume di utilizzo del cinema, costume di fruizione cinematografica, perché dalla prossima settimana, ne abbiamo voluto parlare proprio oggi per questo, scatta una vera e propria rivoluzione nel costume di chi va al cinema. Perché? Perché i film non usciranno più il venerdì, bensì il giovedì. È un piccolo passaggio però di sapore storico per la fruizione cinematografica. Eravamo abituati da sempre, da tantissimi anni, al fatto che il venerdì era il giorno delle novità al cinema, delle prime, dell'attesa, e per cui tutta la settimana si consumava appunto magari con i film già in sala, e poi il venerdì le novità che immettevano nel weekend cinematografico. Dal 4 ottobre tutte le prime uscite nelle sale cinematografiche verranno invece appunto di giovedì, una decisione che è stata presa qualche settimana fa, un po' di tempo fa, e che appunto sta per entrare in vigore. Come cambierà la fruizione del cinema in questo senso nel fine settimana? Quali sono gli obiettivi che ci si è posti? Ne parliamo con Lionello Cerri, che è in collegamento con noi, presidente dell'ANEC, l'Associazione Nazionale di Esercenti Cinema, nonché il nume tutelare del Cinema Anteo, del Cinema Apollo di Milano, nonché produttore cinematografico. Ma oggi lo chiamiamo in veste di uomo di cinema, di qualcuno che le mani sulla programmazione di un cinema le ha messe e le sa mettere. Ciao Lionello e benvenuto alla Rosa Purpure. Ciao Lionello. Allora, è una novità importante, perché permette ai film di stare un giorno in più in sala prima del fine settimana, e quindi forse di far circolare un po' di più soprattutto il cosiddetto passaparola. Sì, questo è il primo obiettivo, perché per abituare il pubblico a anche discutere, a chiacchierare di più sul cinema, su quello che quel film rappresenta, su quelle che sono le emozioni che ti dà quel film, sul fatto che ti piace o non ti piace. E quindi, visto che la fruizione del cinema il sabato e la domenica è maggiore rispetto agli altri giorni della settimana, è chiaro che un giorno in più può portare un passaparola molto più, diciamo così, cospicuo, da una parte. Dall'altra parte è chiedere anche alla stampa, ai media in generale, ovviamente, di stare, diciamo così, allinearsi sulle stesse date per parlare del cinema, eccetera. Oserei dire che c'è un terzo aspetto, che è più dell'industria, che è quella di fare un sistema, perché oggi è vero che si usciva il venerdì, ma in molte occasioni si usciva anche il mercoledì, quindi si disabituava il pubblico a un giorno solo della settimana. In più ci possono in futuro essere anche, diciamo così, delle agevolazioni, delle promozioni rispetto a quel pubblico che si fidelizza rispetto al primo giorno di uscita, e quindi potrebbe, diciamo, nascere un gruppo di utenti del club delle prime, no? Cioè, poi l'immaginazione viene facendo le cose, quindi credo che questa è una piccola cosa, ma che può sviluppare una grande innovazione. Lionello, non temete che però rimangano un po' schiacciati i film nella loro tenitura susseguente? Dal lunedì in poi, il famoso film da centro settimana non potrebbe essere un po' penalizzato? Perché noi, forse qualche ascoltatore si ricorda, e spero che siano in tanti, si ricorderanno il mercoledì per tutti quanti a prezzo ridotto, e forse ultimamente non è stato più valorizzato come era valorizzato un tempo. Se ci ricordiamo, anni fa il mercoledì era diventato, dopo il sabato e la domenica, uno dei giorni più forti della settimana. Noi vogliamo rilanciare il mercoledì, quindi in una situazione ideale il mercoledì è l'ultimo giorno della settimana, e quindi hai la possibilità anche di andarci, no, con uno sconto generalizzato a tutti gli spettatori. Teniamo poi presente che oramai questo competitor che per le sale cinematografiche teatrali è il calcio, e quindi la televisione, oramai lavora su 5 giorni alla settimana. Quindi per noi la settimana deve per forza di cosa essere allungata, e quindi anche per questo che c'è il discorso del giovedì. perché poi non è possibile abituare la gente ad andare soltanto il fine settimana al cinema, perché noi funzioniamo 7 giorni su 7 e ci sono magari le sale piene il sabato e la domenica e le sale vuote durante la settimana. Quindi anche per dare un servizio migliore al nostro pubblico stiamo cercando di valorizzare i giorni della settimana. E allora ricordiamolo, quindi dal 4 ottobre il giovedì, se a pranzo ci sono gli gnocchi come da proverbio, la sera c'è il cinema. Grazie a Lionello Cerri per essere stato con noi, e appuntamento quindi al cinema dal giovedì in poi. Grazie a voi. La Rosa Purpurea. Eccoci qui alla quarta parte della Rosa Purpura, che come sempre è dedicata ai film da vedere sul piccolo schermo, in televisione gratuitamente, come Policy di Radio 24, e in un video invece. Cominciamo subito con gli amici del settimanale Film TV, che hanno dato un'occhiata insieme a noi ai palinsesti del prossimo weekend. Vediamo che cosa abbiamo scelto. C'è con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Senti, oggi due film per la settimana prossima da segnarsi, sicuramente molto diversi fra di loro, ma ugualmente capaci di segnare i propri rispettivi generi di appartenenza in maniera profonda. Da una parte cominciamo con Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis, niente po' di meno, che andrà in onda martedì 2 ottobre su Rai Movie. Esattamente martedì 2 alle 23.15 su Rai Movie, Un lupo mannaro americano a Londra. Capolavoro della commissione tra i generi realizzata dall'autore di The Blues Brothers in assoluto stato di grazia. Landis lavora sugli scarti della socialità, della cinefilia, dei toni, degli umori, e il suo lupo mannaro diviene un umoristico simbolo della sessualità repressa in una parabola divertentissima e decisamente politica sul rapporto tra la massa e il diverso. Per Landis il tragico e il ridicolo in questo film coincidono in maniera assoluta. Oscar per il trucco per Rick Baker. Ed è un grandissimo del make-up, insomma, degli effetti speciali. Un lupo mannaro americano a Londra, quindi, su Rai Movie il 2 ottobre, martedì 2 ottobre alle 23.15. E invece, Noblesse Oblige, o Dulcis in fundo, come preferite, la seconda segnalazione è dedicata al grande Federico Fellini con la sua intervista. Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 alle 5.35 del mattino su Rai Movie, intervista. Un'intervista di Fellini a se stesso e al suo cinema, come a celebrarsi e a indagare insieme il mistero della sua poetica. Tra memorie, curiosità, appunti e riflessioni sulla settima arte. È il film narcisista e profondamente malinconico di un creatore di fiamme assolutamente italiane, di un maestro che si interroga sullo stato delle cose della sua arte e propone immagini strazianti, come quel cerchio di luce bianca che illumina il deserto del teatro di posa alla fine. Premio del 40° anniversario del Festival di Cannes. Un film pieno di segnali lanciati dalla preistoria. Hai parlato del cerchio di luce, ricordiamo anche gli indiani armati di antenne che rappresentano un po' l'assalto ormai imminente della TV commerciale, che da lì a poco avrebbe fatto dell'Italia culturale, avrebbe contribuito a fare, non vogliamo mai essere troppo assolutisti, quello che oggi Matteo Garrone racconta in reality. Insomma, c'è tutto un grande collegamento in questa cosa. Ecco perché è importante vedere, rivedere Intervista di Federico Fellini il 5 ottobre, la notte, diciamo la mattina presto del 5 ottobre alle 5.35 su Rai 3. Ovviamente potete sempre armarvi di videoregistratore e registrare. Grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV. Grazie a te Franco, alla prossima settimana. E allora, queste le nostre segnalazioni di film da vedere in televisione, terza traccia del game di oggi. Il ragazzo non ritorna oggi dal suo viaggio? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. E cosa c'è di più naturale di un ballo per festeggiare il suo ritorno? No, non la sera. E se tutte le ragazze del regno in età da marito fossero invitati a questo ballo. Cosa c'è di più naturale di un ballo? La Rosa Purpurea @radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Ovviamente abbiamo una copia a disposizione per la puntata del sabato e per quella della domenica, e settimana prossima sveleremo titolo e vincitori, così come facciamo ora col gioco di 7 giorni fa. Chiesi ai fratelli Lumière di vendermi una cinepresa, ma loro rifiutarono. Erano convinti che il cinema fosse solo una moda passeggera e non ci vedevano nessun futuro. O almeno così dicevano. Era Ugo Cabré di Martin Scorsese, il film con cui abbiamo giocato la settimana scorsa, uno dei film più belli, più capaci di suscitare l'emozione della favola. Tra quelli usciti nella scorsa stagione, lo hanno indovinato per primi e quindi riceveranno a casa la versione in Blu-ray Aldo Fabbro di Trieste e Sonia Lo Giudice di Nave, provincia di Brescia. Saranno loro a ricevere il film del quale, nell'edizione un video, il nostro Claudio Pofi ci parla così. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, edizione superlativa per Ugo Cabré con doppia offerta in alta definizione. Si può scegliere tra i Blu-ray in bidimensionale oppure quello 3D che noi consigliamo, dal momento che Scorsese il film l'ha girato con la stessa Fusion Camera 3D sviluppata da James Cameron e Vin Space per Avatar. Immagini da riferimento, audio DTS alta risoluzione italiano e inglese. Ci sono numerosi extra, segnalo un 20 minuti di making of con interventi produttori, attori e regista, un capitolo dedicato a Méliès e un altro sulla magia dei meccanismi e l'uomo automa. E allora questo è Ugo Cabré, l'edizione in un video che è stato il nostro gioco della scorsa settimana. Adesso andiamo alle recensioni di questo weekend, novità in videoteca, laddove ci siano ancora le videoteche, perché vedo che spariscono un po', insomma il modo di trovare l'on video sicuramente tra centri commerciali e altri punti vendita lo trovate. Andiamo a sentire un po' una clip di un film italiano importante della scorsa stagione, ovvero Magnifica Presenza. Ma cos'è che vedi esattamente? Fantasmi. Poverini. Poverini. Pensa a rimanere per sempre intrappolato in questa casa. Ho capito, ma anche io... Quindi lei mi crede? Tesoro, ma mi hai vista? Se credo ancora a me stessa, come faccio a non credere ai fantasmi? Pietro Ponte è un giovane trasferitosi da Catania a Roma che lavora come pasticcere e sogna di fare l'attore. L'entusiasmo per il bell'appartamento e il futuro ancora tutto da costruire si smorzerà una volta che Pietro realizza che la casa è abitata da misteriosi individui, presenze che appaiono e scompaiono, indossano eleganti abiti da sera, apparentemente impossibilitati a uscire da quel luogo. Spaziando tra melò, commedia e ghost story, il regista italo-turco Özpetek gioca a scambiare le parti tra realtà e immaginazione in un'opera eccentrica difficilmente classificabile. Da 01 Rai Cinema, un ottimo Blu-ray con qualità d'immagine ampiamente superiore al DVD, audio DTS ad alta risoluzione in italiano. Per gli extra segnalo un interessante commento al film del regista in compagnia della sceneggiatrice Federica Pontremoli, making of e scene tagliate con commento opzionale del regista. Non è certo la prima volta che si presenta sul mercato dell'on video, è la prima volta però che lo possiamo vedere anche a casa in 3D, stiamo parlando di Titanic. Non sono un idiota, so come funziona il mondo. Ho $10 in tasca, non ho niente da offrirti e questo lo so, lo capisco, ma ormai ci sono troppo dentro. Salti tu, salto io, ricordi? Non posso voltarti le spalle senza avere la certezza che starai bene. Desidero solo questo. Insoddisfatta del futuro programmato dalla madre, Rose non sopporta l'insensibile e facoltoso fidanzato e a bordo del Titanic, il transatlantico più grande del mondo, conosce il giovane americano Jack, amante della libertà e genuino nell'animo. Il loro sarà un amore travolgente quanto breve che si concluderà con l'inabissamento della nave. Colossal di James Cameron, incredibile lavoro dietro il racconto, maniacale ricostruzione storica, capacità di plasmare la materia cinematografica, una nuova edizione, quattro dischi, alta definizione di 20th Century Fox Home Entertainment, con la nuova versione 3D del film, è costata a Cameron quasi $20 milioni, suddivisa su due Blu-ray in un inedito formato di immagine a tutto schermo. C'è un terzo disco con la versione bidimensionale. Strepitosa la qualità d'immagine per entrambe le versioni, audio DTS multicanale per l'italiano e DTS alta risoluzione per l'inglese. Tutti gli extra sono già stati pubblicati, sono tanti commenti, documentari sulla lavorazione e dietro le quinte per un totale di circa 5 ore. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Un saluto, a presto. E allora siamo arrivati anche alla fine della puntata odierna della Rosa Purpura e vi ricordo chiaramente che la Rosa Purpura è presente anche su Facebook, basta cercare la Rosa Purpura Radio 24, trovate la nostra pagina, cliccate mi piace e riceverete tutte le novità, i titoli e i temi della trasmissione in anticipo. Potrete poi scaricare la puntata da lunedì in podcast, non solo da Facebook ma anche dal sito di Radio 24, da iTunes eccetera, insomma tutti i modi possibili per essere restare aggiornati alla nostra community e anche per poter ascoltare la trasmissione quando volete. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Peter Bescapè in regia e vi do appuntamento alla prossima settimana.